l'altra Europa. 9 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, l'appuntamento che dedichiamo ogni settimana per raccontare storie, persone, personaggi di questa Europa che Radio 24 narra nella sua quotidianità politica ed economica. Noi appunto il sabato cerchiamo anche altre sfaccettature, lo facciamo in collaborazione con il network Euronet Plus. Sono tante radio diverse, tante lingue diverse per raccontare lo stesso percorso comune. Come sempre le coordinate virtuali per trovarci anche sulle nostre piazze digitali: Euronet Plus R24 su Facebook e su Twitter, oppure il mio account personale che è @ Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dalla Grecia. Φίλε και φίλοι, η νέα ελληνική κυβέρνηση θα διαψεύσει όλες τις κασάνδρες μέσα και έξω από τη χώρα. Ούτε αμοιβαία καταστροφική ρήξη θα υπάρξει, ούτε όμως συνέχιση της υποταγής θα γίνει ανεκτή. Ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα είναι. Partiamo dalla Grecia, partiamo da queste voci che raccontano le elezioni. E lì, dal 25 al 27 gennaio, durante le elezioni, c'era Andrea Segre, regista che abbiamo già conosciuto qui all'Altra Europa, perché ha filmato film e documentari molto belli, e anche questa volta ha fatto una scelta altra, cioè quella di stare in mezzo alla gente per raccontare le elezioni dal loro punto di vista. È nato un bellissimo reportage intitolato La scelta di Teti, e Andrea Segre qua con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. La scelta di andare, di tornare, perché tu la Grecia ormai la conosci bene, l'hai raccontata in tanti modi diversi, come mai avevi voglia di stare con loro in queste 48 ore di elezioni? Perché la sensazione di aver voglia di dare energia alle speranze che avevo raccolto 2 anni prima, particolarmente mentre durante le riprese di Indebito, il documentario fatto con Vinicio Capossela, era talmente forte nelle persone che avevo incontrato che avevo voglia di condividerlo. Insomma, c'era questa sensazione di aver perso l'occasione 2 anni fa, nel 2012, di cambiare, e quella disillusione che aveva attraversato le vite di tante persone si era aggiunta ai problemi economici e aveva appesantito ancora di più una situazione di crisi materiale. E la Grecia è un luogo dove è un popolo, una cultura dove gli aspetti materiali hanno un peso diverso da quella di tante altre culture europee, dove l'emozione, il vissuto intimo dei dolori e delle gioie hanno un peso specifico ancora oggi più importante di altri pezzi di Europa dove la materialità ha preso un po' troppo spazio. Mm-hmm. E così avevo voglia di condividere l'uscita da quella disillusione, il viaggio verso una speranza che ovviamente è piena, come tutte le speranze, anche di paura. Certo. E chi è Teti e qual è la sua scelta? Teti è un'amica che vive ad Atene, che conoscevo già prima di questo reportage e che poco prima, a Natale, quindi poco prima delle elezioni, un mese prima delle elezioni, ha scelto di lasciare il suo lavoro, tra virgolette, sicuro, molto pesante esistenzialmente. Cioè lei lavorava nella Banca del Pireo, che è la banca che ha assorbito le banche che sono fallite in questi anni e ha assorbito parte dei lavoratori, però lasciandoli in condizioni di lavoro molto precario, sotto pressioni di stalking e di condizioni sempre costantemente incerte. E Teti, pur avendo amato il suo lavoro prima, non riusciva più a stare dentro a quella situazione e ha accettato quello che chiamano il licenziamento volontario. Però essenzialmente lei ha accettato di rischiare, di provare a cambiare, di non stare dentro al ricatto di una banca, e così la scelta di Teti diventa un po' la scelta della Grecia, insomma. Certo. Dentro alla storia di questa ragazza che prende la sua vita e accetta di correre il rischio di non rimanere dentro ad uno spazio fintamente sicuro, no? Cioè di quello che ti dice: sì, se stai qua con me con le mie regole ti garantisco un minimo di sussistenza, però intanto la vita scorre e la vita è fatta di tante altre cose e quel minimo di sussistenza diventa sempre più minimo. Mm-hmm. E Tete ha deciso di non accettare più questa minaccia, se n'è andata con lei e anche altri, e ha preso una buona uscita, che sì, sono dei soldi per riuscire a sopravvivere un po', ma soprattutto ha preso in mano la sua vita e adesso sta cercando di dare spazio a quelle creatività e a quegli entusiasmi che soprattutto in una ragazza di 30 anni hanno bisogno di crescere per provare a non rimanere sotto un ricatto. Assolutamente, un reportage che corre su questo doppio binario della paura e della speranza e che racconta quella Grecia che ha voglia di darsi da fare, quella Grecia che tante volte abbiamo narrato anche noi in questi anni, una Grecia dove c'è stata comunque una esplosione di creatività e voglia di sano protagonismo. andreasegre.blogspot.it è il sito di Andrea. Ricordiamo che Andrea ha il doppio reportage, perché mi sembra che sono due puntate, diciamo, da 5-6 minuti ciascuna, e sono visibili anche sul sito di Internazionale, giusto? Sì, sì, sono coprodotti insieme all'Internazionale, sono stati appunto diffusi grazie al sito Internazionale, una collaborazione di cui sono molto contento e credo che sia uno dei luoghi di informazione che è capace di ascoltare le storie come quella di Tete. Grazie davvero ad Andrea Segre, complimenti come sempre. Ciao Andrea, buon sabato. Grazie a voi, ciao. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Il cantiere d'Europa, tour tra le cattedrali europee a Milano. Grazie alle sue guide esperte, la veneranda fabbrica offre la possibilità di scoprire il Duomo di Milano in modo inconsueto. Appuntamento sabato 14 febbraio alle ore 14 per intraprendere un percorso all'interno e all'esterno del Monumento Meneghino alla scoperta delle storie di uomini giunti a Milano da tutta Europa per contribuire alla realizzazione della cattedrale dedicata a Santa Maria Nascente. Viaggiando con la fantasia tra le più importanti cattedrali europee, da Colonia a Pavia, da Notre Dame a San Pietro, verranno raccontate le connessioni e i legami con i grandi cantieri del passato e del presente e svelati i segreti del Duomo di Milano. Per saperne di più, collegatevi al sito duomomilano.it. L'altra Europa. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni di dominio militare un'armata di africani in Italia meridionale? Un'armata di africani in Italia meridionale. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché. Noi siamo figli di Annibale. Noi siamo tutti quanti figli. Ripartiamo con figli di Annibale per raccontare l'Europa come piace a noi, attraverso un itinerario del vino, un progetto che nasce per promuovere la cultura del vino come radice comune dell'identità europea e mediterranea, espressione quindi di un'esperienza millenaria che risale al mondo classico, greco, punico, romano, un progetto che lega la Sicilia e la Tunisia, un progetto che fa parte di EMPI, MED, sono i progetti di cooperazione transfrontaliera. Diamo il benvenuto a Franco Aurelio Coppola dell'Associazione Strada del Vino Terre Sicane per capire di cosa si tratta. Buongiorno Franco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Dove ci portate con questa strada del vino? A percorrere nuove strade e utilizzando il turismo culturale come un percorso di conoscenza che consente di aprire le finestre su nuovi orizzonti. Mm-hmm. È un progetto che si chiama Magone? Magon? Qual è la giusta... No, il progetto si chiama Magonno perché insomma utilizziamo il francese nel programma Italia-Tunisia, sì. Ma in italiano diciamo Magone, e i latini lo chiamavano Mago. Uh-huh. E si tratta di un agronomo cartaginese che ha scritto il primo trattato sistematico di agronomia. Uh-huh. Molti non sanno che a Cartagine ci fu una rivoluzione agronomica molto importante, che sta alla base anche della potenza cartaginese nel Mediterraneo. Mm-hmm. E, una concentrazione di saperi sull'agronomia che venivano dall'Oriente, che è stata appunto sistematizzata da questo agronomo che ha scritto un trattato in 28 volumi, e poi alla fine, quando Cartagine venne distrutta, il Senato di Roma ordinò una sua traduzione in latino, proprio perché Roma aveva bisogno delle conoscenze cartaginesi. Certo. www.italietunisie.eu è il sito del progetto, strade e vini e sapori sicilia.it invece è il sito dell'associazione Strada del Vino Terre Sicane, un itinerario culturale che ha il vino come cuore di questo viaggio a cavallo tra l'Europa e la Tunisia, e quindi nell'area del Mediterraneo. Un itinerario che parte da dove e arriva dove? In questo braccio di mare che separa le coste della Sicilia, dove stava l'antica colonia di Selinunte, e il Cartagine, si realizzano, diciamo, due nodi di questo itinerario culturale europeo Iter Vitis, che è un itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Sul versante siciliano l'itinerario parte dal Parco Archeologico di Selinunte. Sì. E percorre le strade dell'antica Cora selinuntina, che ancora oggi sono caratterizzate dalla presenza, diciamo, del vigneto. Si tratta di una zona in cui ancora oggi c'è una delle più grandi concentrazioni di vigneto d'Europa. Insomma, un bel viaggio, anche questo è un racconto importante dell'Europa che sarà. Grazie davvero a Franco Aurelio Coppola, Associazione Strada del Vino Terre Sicane. Buon lavoro e buon in bocca al lupo per il progetto. Grazie, una buona giornata. Buon sabato. Europost-it. Progetto SVE per il Banco Alimentare Estone. Volete fare un'esperienza di volontariato all'estero? Sapevate che la colletta alimentare c'è anche in Estonia? IBO Italia cerca urgentemente un volontario per un progetto SVE di 12 mesi presso l'Estonian Food Bank di Tallinn, con partenza il 1 marzo. Il Banco Alimentare Estone è un'organizzazione no profit che ogni settimana distribuisce cibo a 1700 famiglie che vivono in situazioni di disagio e povertà. Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 30 anni e richiedere l'application form via mail all'indirizzo elisa.squarzoni@iboitalia.org. Affrettatevi, è possibile candidarsi entro e non oltre il 16 febbraio. Da sempre le specie viventi trasmettono il loro sapere per istinto. Così in Alto Adige impariamo subito ad amare le cose buone e impariamo a farle bene. Ci viene naturale. Alto Adige Sud Tirol. È un tassello di un importante progetto europeo su cui stanno lavorando. Il tema è quello dell'identità di confine. Questo tassello si chiama Alto Fragile, uno spettacolo teatrale che andrà in scena domani, l'8 febbraio alle 20:30 al Teatro Studio, quindi Teatro Stabile di Bolzano, e giovedì 12 febbraio a Trento. Si parla di identità di confine, una delle zone dove più ci sono muri e più ci sono contaminazioni, quindi questa contraddizione anche di lingue, di culture, di mondi. Di questo ne parliamo con Daniele Filosi, organizzatore dello spettacolo. Ciao Daniele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico. Che cos'è Alto Fragile? Anche in chiave europea, nel senso che è sicuramente un laboratorio importante, anche allargandolo al di là di quello che è la situazione locale. Certo, Alto Fragile è un progetto di uno spettacolo teatrale che è nato all'incirca un anno fa, quindi ci abbiamo messo un anno appunto a studiare, a documentarci e poi a costruire uno spettacolo che appunto debutta in prima nazionale domani sera, e diciamo che è stato un percorso che parte dal punto di vista del racconto e di quello che portiamo in scena da questo territorio, che è l'Alto Adige o Sud Tirolo, a seconda delle visioni e delle culture da cui lo si guarda, e mescola ovviamente le due culture che convivono e che in qualche maniera sono state chiamate a convivere in questo territorio, che è l'Alto Adige, e quindi anche ovviamente le due lingue. Infatti è uno spettacolo recitato sia in italiano che in tedesco e anche in dialetto tirolese, che è anche una lingua importante in questo territorio. E questo diciamo è il primo passo di un progetto che vuole essere più ampio, che stiamo iniziando a costruire anche con dei partner sia del territorio che innanzitutto l'Euregio, che è diciamo questa organizzazione che raggruppa la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e la provincia del Land del Tirol, quindi che fa capo a Innsbruck, quindi tre regioni che in qualche maniera fino all'incirca un secolo fa erano all'interno di degli stessi confini. Poi dopo la prima guerra mondiale questo territorio è stato diciamo diviso con il confine che conosciamo al passo del Brennero, sì. E questi tre territori stanno cercando di dialogare al di là dei confini europei, che oramai sono quanto più labili si possa immaginare. Stanno cercando di dialogare e costruire dei progetti. Questo è un progetto che in qualche maniera è stato sostenuto e viene sostenuto anche dall'Euregio, e poi stiamo guardando anche a un centro di ricerca, stiamo collaborando con un centro di ricerca che si chiama EURAC, che ha sede a Bolzano, un centro di ricerca che lavora tra le varie cose anche sulle questioni dei diritti delle minoranze, e stiamo cercando dei partner a livello europeo con cui portare avanti questo progetto che riguarda l'identità di confine. Daniele, ma uno guarda l'Alto Adige e ci crede all'Europa Unita? Com'è? Uno guarda l'Alto Adige e ci crede nella possibilità reale di una Europa unita anche nella cultura, anche in qualche maniera sì, perché noi siamo partiti dalla nascita e dalla creazione dello spettacolo in scena ci sono quattro attori che vengono da quattro culture diverse. Abbiamo Maura Pettorruso, che è una torinese anche se di origini meridionali, che si è trasferita 10 anni fa a Trento. Abbiamo Stefano De Tassis, che invece è un trentino doc di nascita e di vita. E poi abbiamo Flora Sarrubbo, che invece è bolzanina, nata a Bolzano, però ha origini meridionali, è madrelingua italiana, però parla tedesco. E poi abbiamo Christian Mayer, che è invece di madrelingua tedesca, nato a Bolzano anche lui, madrelingua tedesca, che però parla anche italiano. Quindi siamo partiti proprio dalla composizione tra virgolette etnica del gruppo, e chiaramente ci siamo confrontati, i quattro attori si sono confrontati anche sul testo, sul linguaggio, e creando in scena quello che in piccolo può essere un metodo di convivenza. Quindi sì, ci si crede, qui è ovvio che a livello locale i problemi sono risolti, e, come dire, i problemi più gravi sono stati risolti, diciamo, negli anni 60 e negli anni 70 comunque in questi territori sono state fatte azioni terroristiche con dei morti, certo. E poi pian piano con la politica, con il buon senso, anche in qualche maniera si è cercato di trovare una formula di convivenza che chiaramente è sempre in divenire, quindi può essere un modello anche per altre zone, altre aree con problemi analoghi in giro per l'Europa. www.europaregion.info/it, questo è il sito per avere maggiori informazioni e per conoscere meglio questo spettacolo Alto Fragile. Ricordiamo la prima domani, domenica 8 febbraio al Teatro Stabile di Bolzano, giovedì 12 febbraio ore 21 invece a Trento. Grazie Daniele e complimenti a te e a tutto il gruppo di lavoro. Buon sabato. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Un Europostit e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europostit. Info Day Europa Creativa, sottoprogramma Cultura. Doppio appuntamento in Emilia-Romagna per il Creative Europe Desk Italia. Oltre a Modena, sarà anche a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il 17 febbraio, per un Info Day sul sottoprogramma Cultura. Le esperte del desk presenteranno la struttura del programma Europa Creativa, i primi risultati delle Call 2014 e i progetti di cooperazione europea su piccola e larga scala. Europa Creativa finanzia progetti transnazionali per la promozione di opere letterarie serie di giovani artisti e creativi attraverso i mercati dell'Unione Europea. L'evento è gratuito ed è rivolto in particolare a tutti i sindaci e i rappresentanti dei comuni dell'Emilia-Romagna. Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Per informazioni scrivete all'indirizzo email aiccre@regione.emilia-romagna.it. L'altra Europa. Amazing, actually. It's been an amazing experience which has given me a lot of new hope that I'm going to succeed in my future life. It's a translation contest organized by the European Commission for schools across the EU. I really didn't realize at first how big thing this was. It's mainly meant for ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Quelle che state ascoltando invece sono parole, sono racconti di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a Juvenes Translatores lo scorso anno. Che cos'è questo concorso promosso dalla Commissione Europea ogni anno? Ed è un concorso che chiede ai ragazzi, agli studenti delle scuole superiori di cimentarsi nella traduzione di un testo in una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Un concorso che ha visto oltre 3.000 partecipanti quest'anno, oltre 740 scuole da tutti le 28, dai 28 stati membri. 28 sono gli studenti, uno per ciascun paese dell'Unione Europea, vincitori del concorso. E è stato annunciato anche il vincitore italiano, si chiama Sofia Silvestre ed è qua con noi, penultimo anno del liceo classico dell'Istituto Salesiano di Don Bosco. Non so di dove. Ciao Sofia. Ciao, è di Verona. Di Verona, eccoti qua. Scusa, non, si era persa l'informazione. No, ci sono. Ciao, ciao, benvenuta. Allora, grazie. Beh, è un concorso molto, molto particolare, anche proprio nella sua genesi, perché di fatto ti viene fatto scegliere la combinazione di lingue, giusto? Da sì, quale. Sì, puoi scegliere tu al momento dell'iscrizione, quando ti dicono vuoi partecipare al concorso, che lingua vuoi fare. Mm-hmm. E leggevo che sono 552 le combinazioni possibili. Sì, sono tantissime. Tu quale hai scelto? Io ho scelto dal polacco e l'italiano. Ok, dal polacco che conosci perché sei. Perché no, io sono nata qua a Verona, però mia mamma viene da Cracovia e sin da piccola mi ha insegnato il polacco. Addirittura le mie prime parole sono state in polacco. Insomma, quindi eri favorita, nel senso che è una lingua che mastichi bene, che però è anche approfondito. E leggevo che comunque a scuola avete fatto anche una sorta di preparazione finalizzata a questo concorso, perché comunque sono testi scelti dai traduttori ufficiali, loro stessi poi li correggono, quindi avete fatto incontri con un interprete? Sì, la mamma di un mio compagno di classe appunto è venuta e ci ha dato alcuni consigli che a me sono serviti davvero tantissimo, che mi sono un attimo rinfrescata prima di iniziare la traduzione. E comunque ci ha detto per quanto riguarda l'italiano, anche il formato del testo e soprattutto di non essere tanto letterali, ma la cosa più importante è di far trasmettere al lettore ciò che voleva dire il testo. Mm-hmm. Quindi non fare solo una traduzione pedissequa delle parole, ma cercare proprio di comunicare quello che è il cuore del messaggio. Sì. Questo vuol dire che testo era? Cosa riguardava? Beh, parlava di questa ragazza dalla Polonia che andava a Parigi tramite il volontariato europeo a condurre un programma radiofonico con altri ragazzi, un italiano, un tedesco, una ragazza mi pare dalla Bulgaria, e che comunque raccontava che anche, questa è la frase più o meno finale, che anche se ci dividono le culture e comunque anche le tradizioni, le tradizioni, i valori sono quelli che ci uniscono. Mm-hmm. Ma quindi l'hai un po' romanzato? No, okay. non per mia iniziativa. Ok, quindi bisogna comunque trasmettere il messaggio, ma tenendo a bada la creatività, diciamo. Certamente, e mantenendo anche i giochi di parole. Ah sì? Che quello non è facile, vero? Infatti questo mi ha messo un sacco alla prova, come per esempio c'era una traduzione che io ho reso con i meandri della soffitta, i meandri della nostra ragione, una cosa del genere, se mi ricordo. Però cioè ci ho messo un po' prima di elaborarla. Insomma, complimenti davvero, perché ricordiamo 328 sono stati gli allievi italiani che hanno partecipato al concorso, tu hai vinto, quindi insomma credo sia 300, una... 300 mi pare, 28. Sì, 328, che sia una bella soddisfazione. Andrai a Bruxelles, mi sembra... Il 16 aprile, quindi magari ci risentiremo così ci racconti anche come... Ah, se volete. Come l'emozione del momento. Sarà altissima. E questo sarà ciò che farai da grande? Pensi che il tuo futuro sarà nel mondo delle lingue? Allora, io non me lo sarei mai immaginato, perché da quando sono alle medie dico va bene, farò il dottore come mio papà, arrivo in quarta superiore e mi vedo vincere questo concorso e insomma qualche domanda sorge, quindi insomma sono in una fase di totale confusione. Bella, guarda, è confusione creativa, è confusione che fa bene, quindi per fortuna che c'è questo momento di confusione. Complimenti Sofia, complimenti davvero. Ciao, grazie. Ciao, buon davvero, sabato. Davvero, grazie. Europost-it. Invisible Cities, festival internazionale della multimedialità urbana. Sono aperte le call rivolte ad artisti di tutta Europa per partecipare a Invisible Cities, il festival internazionale della multimedialità urbana che si terrà a Gorizia dal 3 al 7 giugno 2015 e che invita artisti di tutta Europa a rileggere e trasformare le città attraverso le arti digitali, la multimedialità e l'interattività. Promosso dall'Associazione Culturale 4704 e cofinanziato dall'Unione Europea, il festival intende riflettere sulle città e sui loro spazi attraverso le potenzialità offerte dai linguaggi della multimedialità e dell'interattività. Il bando per partecipare scade il 28 febbraio. Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale invisiblecities.eu. Vive peggio e si sta meglio a Londra. London is not easy, it's tough to find a job, it's tough to find a flat, it's not a friendly place. Una città può essere molto crudele, che ti può far sentire solo. La persona che si trova qui vive emozioni sofferte, momenti di forte ansia, di mancanza di autostima, dubbio. Partono con delle aspettative altissime e capiscono che la realtà è dura. Spesso sono senza una solida preparazione linguistica e professionale. Gli italiani non sono abituati a... 94.000 sono stati gli italiani che nel 2013 sono migrati verso l'Inghilterra e parte da questa realtà. Il film di Luca Vullo è intitolato Influx, un viaggio nel cuore della Londra italiana. Luca Vullo, filmmaker e regista, è qua con noi. Ciao Luca. Buongiorno a tutti. Luca, che Londra hai voluto raccontare e che parte d'Italia anche hai voluto raccontare? Londra in realtà diventa una sorta di specchio per raccontare gli italiani e l'Italia in questa fase storica, perché trovandomi ad essere un influx anche io, insomma adesso sono un migrante a tutti gli effetti, ho avuto la percezione proprio che mi trovavo in mezzo a un flusso enorme, a un'emorragia vera e propria. Chiaramente Londra è la città più gettonata in questo momento dell'immigrazione italiana, ed è un momento storico molto particolare sia per l'Italia ma anche per l'Inghilterra e per l'Europa. Quindi mi sembrava quasi necessario dover raccontare quello che stavo vivendo in prima persona, ed è un quadro talmente particolare, variegato, difficile da catalogare, che ci ha subito interessato come ricerca e mi ha permesso di approfondire ancora meglio un fenomeno che non è facile da catalogare, come dicevo, ma è un movimento, è un manifesto sugli italiani e sull'Italia, perché non siamo in una buona fase, ma certo, allo stesso tempo siamo una popolazione che si fa sentire, e si fa sentire nel bene e nel male, insomma, in qualche modo. Quindi il nostro tocco in questo paese c'è, e diamo molto a questo paese, ma allo stesso tempo prendiamo molto da questo paese. E quindi è una situazione molto delicata. Assolutamente. Ecco, cerchiamo di fare con Influx è questo. Luca, tu avevi già raccontato, ti eri già occupato di migrazione verso il Regno Unito, in particolare parlando dei fenomeni migratori del dopoguerra, tra Italia e Belgio. Sì. Quindi il tema della migrazione è un tema che senti tuo. Dal dopoguerra al dopocrisi, se si può insomma parlare di dopo crisi, ci sono assonanze? Sì, secondo me la cosa affascinante chiaramente sono due migrazioni molto diverse, quella dei minatori, dei contadini che partivano per lavorare nelle miniere di carbone dopo il patto di Toro Belga del 1946 era un'emigrazione chiaramente prettamente professionale, ma con una preparazione, se vogliamo, diversa, che era sicuramente più basata sul lavoro e non sulla, sullo studio, ma adesso ci ritroviamo invece in un'emigrazione molto più come dire, culturale, ma professionale allo stesso tempo, che però adesso non è più una fuga di cervelli, parliamoci chiaro, adesso è una fuga e basta, partono anche le famiglie, partono anche liberi professionisti sopra i 50 anni, quindi non è più esclusivamente una fuga di cervelli culturale, intellettuale, ma o di persone che hanno studiato e che hanno la laurea. Quindi ci sono molte assonanze, perché la prima cosa credo che sia la ricerca di un posto dove poter vivere meglio, di poter fare il lavoro che piace e avere, ecco, la speranza di un futuro, mettiamola così. Mm-hmm. Ecco, credo che la cosa più grave che emerge da questa ricerca è che in Italia abbiamo smesso di sognare. E smettere di sognare significa comunque spegnere il motore e l'energia, secondo me, di un popolo giovane, ma non solo, di un popolo in generale. Ecco, qui forse Londra dà ancora quella speranza di sognare un futuro migliore e di poter fare quello che si è sempre desiderato nella vita. Si evidenzia molto anche il lato della meritocrazia, che questa è un po' una delle parole chiavi del tuo documentario film, che si può vedere dove, Luca? Allora, il film sicuramente poi uscirà, oltre al percorso classico nei festival internazionali, poi uscirà al cinema. La prima la faremo qui a Londra, credo non prima dell'estate di quest'anno, però comunque sì, uscirà al cinema, avrà una versione anche televisiva e una versione cross mediale, proprio perché crediamo che il progetto è in continua evoluzione, non si fermerà in un documentario unico, anche perché avrei dovuto fare un colosso alla puntata per raccontare tutto quello che sta succedendo. Esatto, con finale aperto. E dacci un sito di riferimento per seguire comunque il lavoro nel suo evolversi. Assolutamente, influxlondon.com è il sito ufficiale del film, c'è la pagina Facebook Influx e la pagina di Twitter che è God Save Italians, che è il nostro motto in qualche modo anche autoironico su questa situazione. Ci troveremo sicuramente ancora qui a parlare e a vedere via radio il tuo film. Grazie davvero a Luca Vullo, Influx, grazie, un viaggio nel cuore della Londra italiana. Ciao e buon sabato. Ciao anche a voi, seguiteci. Assolutamente. Un Europosit, le informazioni per chi viaggia, poi ancora qua con l'altra Europa. Europosit. Tirocini e borse di studio al Centro Europeo di Lingue Moderne. Siete laureati in lingue e parlate inglese, francese e tedesco? L'ECIML, Centro Europeo di Lingue Moderne, accoglie tirocinanti due volte l'anno per un periodo di alcuni mesi. Gli studenti saranno coinvolti nelle attività della struttura del Consiglio d'Europa, che ha l'obiettivo principale di favorire e promuovere approcci innovativi nell'apprendimento e nell'insegnamento delle lingue moderne. Sono proposte quattro aree specifiche di incarichi: sito web, programma e logistica, documentazione, finanza e amministrazione legale. Il termine per presentare la propria candidatura è il 28 febbraio. Maggiori informazioni sul sito traineeship.ecml.at. L'altra Europa. Era la colonna sonora di Sognando Beckham, film di qualche anno fa. Chissà se anche la storia di oggi, una di quelle storie che secondo noi fanno l'Europa, ha come incipite proprio un Sognando Beckham, perché si può partire dall'Erasmus e arrivare a trovarsi seduti su una panchina per coronare il proprio sogno, che è quello di fare l'allenatore di calcio. Una storia che non è inventata, una storia vera, che ha come protagonista un italiano, si chiama Alberto Del Favero ed è qua con noi. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille, ciao. Grazie a te. Stavamo parlando poco fa di un documentario che racconta gli italiani a Londra. Anche tu sei, non proprio a Londra, ma sei uno di quegli italiani che sta riuscendo a coronare il proprio sogno, a realizzare così le proprie vocazioni lì in Inghilterra. E dall'Erasmus a una panchina da allenatore, com'è andata? Beh, guarda, è stata, te la dico in breve perché dovremmo spendere 7 puntate per dire tutto, però è stata un'esperienza di questo tipo. Io sono partito solo per fare l'Erasmus, poi per tornare in Italia. Chiaramente qui ho trovato un ambiente molto consono, molto appropriato anche alle mie caratteristiche individuali, personali, e quindi dal progetto, diciamo, momentaneo, poi sono stato apprezzato, ho apprezzato loro, diciamo che ci siamo apprezzati, ecco. e quindi poi ho trovato il mestiere per rimanere fisso qui. Mm-hmm. Tu sei laureato in cosa? Hai fatto l'Erasmus durante? Guarda, io devo fare una precisazione. Io ho fatto l'Erasmus, ma l'ho fatto come ultimo atto doloroso della mia carriera universitaria, che non ho finito. Perché okay. Diciamo che l'Erasmus è stato un escamotage per andare via dall'Italia. Ho ecco, capito. Questo è stato il concetto. Perché io, per problemi personali, economici, su cui non mi dilungo e non mi voglio neanche soffermare, certo, non ho potuto terminare gli studi. E quindi poi sono dovuto praticamente scappare, e diciamo che l'Erasmus è stato il via libera, ecco. Uh-huh. E all'università di Bath, e lì com'è stato il passaggio dalle aule universitarie al campo? Ma sai, non è stato un passaggio del tutto traumatico, nel senso che io comunque la professione di allenatore la stavo già svolgendo in Italia, tanto che con buona parte di quel lavoro io mi sostenevo autonomamente gli studi. Sì. Ecco, e l'ho fatto per 5 anni. Diciamo che, ecco, forse il trauma non è stato proprio il passaggio dall'aula al campo, quanto da un campo in italiano al campo in inglese, che è stata forse la cosa più curiosa, però più che altro per aspetti di lingua, di linguaggio specifico e di differenze culturali. Ma per il resto ti posso dire che il trauma non c'è stato, perché, come ti ho detto prima, l'ambiente mi ha accolto molto bene, e tuttora mi trovo benissimo, soprattutto adesso che mi sto affermando un po' alla volta. Mm-hmm. E se non erro, adesso alleni bambini e una squadra femminile, dico bene? Sì. Mm-hmm. Sì, esattamente, alleno una squadra di bambini, adesso sono anche qui al campo, e di solito durante la settimana alleno la seconda squadra femminile della University of Bath con la collaborazione di un altro ragazzo che si chiama Jack. E ti posso dire, guarda, in breve, tanto per darti un'idea, che l'esperienza è molto bella da entrambi i lati, perché chiaramente con i bambini c'è grande divertimento, c'è grande spensieratezza, il tempo vola, e con le ragazze dell'università mi trovo benissimo, perché sono persone meravigliose, hanno 18-19 anni, sono educatissime, sono persone disciplinate, che ascoltano, partecipano, e hanno anche, insomma, la mente molto aperta. Sono veramente, guarda, persone gradevolissime con cui si passa il tempo volentieri, al di là del ruolo che hanno. Potrebbero essere giocatrici, come studentesse, come operaie, ma è la persona che conta, quello che fa la differenza. Io sotto questo punto di vista mi trovo molto bene. E Alberto, insomma, sfrutto l'occasione della tua esperienza anche per allargare un po' le curiosità. Ma c'è un approccio diverso anche rispetto proprio al calcio. Adesso tu alleni i bambini, sto pensando, noi siamo abituati nei campetti italiani a vedere questi genitori che urlano, che gridano, è cosa comune, o lì c'è una cultura diversa anche legata allo sport per i più piccoli? Apprezzo la tua domanda, perché colgo l'occasione proprio per sottolineare questa cosa. Qui i casi di megalomania, di frustrazione, sono veramente casi sporadici, nel senso che poi tante volte addirittura chi magari tende a essere un po' più chiassoso tende a cancellarsi proprio perché stona in mezzo a quella che è la tranquillità dell'ambiente. E quindi è chiaro che la differenza non è minima, è grande, è molto grande, e sotto quel punto di vista si nota tantissimo. I bambini qui sono molto più distesi, sereni, e questo chiaramente perché c'è più sapere in generale. Non parlo solo della cultura specifica calcistica, ma anche dal fatto che è accompagnato uno sviluppo caratteriale dell'individuo, non solo cognitivo, cosa che da noi, sai, nel calcio e anche negli altri ambienti preposti all'istruzione, questo manca molto, manca. E quindi qui si vede la differenza di avere delle persone che hanno sì delle conoscenze, ma anche un'etica, una deontologia, se vogliamo, rispetto a quello che fanno. Mm-hmm. E l'essere italiano ti ha aiutato? Guarda, l'essere italiano mi ha aiutato nel calcio, perché ha acceso un po' la curiosità delle persone intorno a me. quindi relazionando così. Diciamo che per il resto all'inizio è stato un po' difficile, perché al di fuori del calcio dico, perché cosa vuoi, arrivava uno straniero da un paese un po' particolare, in questa città in particolare noi italiani non è che abbiamo una gran nomea, quindi chiaro che per me è stato un po' difficile distruggere il pregiudizio, no? È abbastanza tosto, però poi sai, queste sono persone che fanno anche della buona introspezione, non si fossilizzano sulle loro idee, e quando hanno capito che non ero venuto qui per far del male a nessuno hanno cominciato a pensarne anche gli altri. Certo. Grazie davvero ad Alberto Del Favero, complimenti, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie a voi, grazie mille. Ciao Alberto, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Progetto SVE in Finlandia sullo sviluppo urbano. Avete tra i 18 e i 30 anni e siete interessati a un'esperienza all'estero in campagna? L'associazione finlandese Keskipiste Leader cerca due volontari per un progetto di servizio volontario europeo sui temi dello sviluppo urbano, dell'urbanizzazione e della gioventù. I volontari saranno coinvolti in diverse attività a contatto con coetanei e bambini nell'area di Nivala in Finlandia. Il progetto avrà una durata di 52 settimane da giugno 2015 a maggio 2016. Per partecipare è necessario avere un ente di invio. Per maggiori informazioni sull'associazione ospite, collegatevi al sito keskipisteleader.fi o inviate un'email all'indirizzo evs@keskipisteleader.fi. Questi sono i nostri Europost-it, vi ricordo che tutto ciò lo potete ritrovare anche sul nostro sito www.radio24.it, da dove poi potete anche riascoltare l'intera puntata. Ci trovate anche sui social network, Euronet Plus R24, l'account personale del network a cui apparteniamo, oppure il mio che è @FedericoTaddia, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato. Una puntata difficile, e grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, ci mancherà quel sorriso, e è stato forse il primo sorriso che ho visto qui in onda a Radio 24 quando sono entrato per la prima diretta. Ciao Rudy. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.